La storia e la memoria di Dino Pesole. Molti comuni dei castelli romani subirono tra il 1943 e il 1944 numerosi bombardamenti da parte delle forze alleate che intendevano colpire le postazioni tedesche che avevano occupato il territorio per fermare l'avanzata degli anglo-americani dopo lo sbarco di Anzio. Il 10 febbraio del 1944 le cittadine di Albano Laziale e Castel Gandolfo furono vittime di un disastroso bombardamento di cui ancora oggi non si conosce il numero esatto delle vittime. La popolazione si era rifugiata presso il Collegio di Propaganda Fide in territorio vaticano. Per le numerose vittime ad Albano fu conferita la medaglia d'argento al merito civile. Ora, a 70 anni di distanza da quei tragici eventi, i comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo hanno organizzato una serie di iniziative in corso dal 15 gennaio fino al 15 marzo, con proiezioni di film, presentazioni di libri, conferenze, mostre, letture, spettacoli teatrali e visite guidate. È la rassegna La memoria della Seconda Guerra Mondiale sul territorio della Regione Lazio, affidato per la realizzazione all'Associazione Propaganda Fide. Il 15 gennaio è stato proiettato nelle scuole il film Rappresaglia di Gheorghe Panagiotis sull'eccidio delle Fosse Ardeatine. Tra le altre iniziative, la proiezione dei film Il viaggio più lungo, Rodi Auschwitz, di Ruggero Gabbai, e L'uomo che verrà, di Giorgio Diritti, la presentazione di libri degli scrittori Marco Patricelli, Anna Foa, Michela Ponzani, Luigi e Tullia Pasquali Coluzzi, la mostra fotografica e il catalogo dal titolo Castelli in aria, istantanee dalla guerra ad Albano Laziale e Castel Gandolfo, spettacoli teatrali, letture, conferenze sulla Costituzione e sulle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale nel Lazio, una visita guidata al collegio missionario Mater Ecclesiae de Propaganda Fide, luogo del bombardamento del 10 febbraio 1944. Lo scopo principale dell'iniziativa è ricordare soprattutto le sofferenze e i soprusi subiti dalla popolazione, ma anche la fiera opposizione al regime e la resistenza al nazifascismo. Ne parliamo questa sera con il sindaco di Albano Laziale, Nicola Marini. Buonasera e benvenuto, sindaco. Buonasera. Allora, ci racconti un po' di questa iniziativa, come è nata e quali sono gli obiettivi prevalenti. Congiuntamente con il comune di Castel Gandolfo, ovviamente ringrazio, approfitto dell'occasione per ringraziare il sindaco Milvia Monachesi e l'associazione Vittime dei Bombardamenti di Propaganda Fide, rappresentata dal presidente Ada Scalchi. Abbiamo ritenuto giusto partecipare al progetto della Regione Lazio sulla memoria della Seconda Guerra Mondiale sui nostri territori, e quindi abbiamo presentato questo progetto multimediale, possiamo dire, che, come avete ben spiegato nella scheda, ricorda un po' tutto quello che è stato gli avvenimenti spesso luttuosi che si sono svolti sul nostro territorio durante gli anni 43 e 44, e proprio in base a quelli, oltre che alla partecipazione alla lotta di liberazione partigiana, hanno valso alla nostra città la medaglia d'argento al merito civile. Ecco, sindaco Marini, proprio il bombardamento del 10 febbraio del 44 è quello più tragico sulle cittadine di Albano Laziale e Castel Gandolfo, ma oggi non si ha un esatto numero delle vittime, è possibile? L'esatto numero delle vittime non c'è, però possiamo tranquillamente dire che le vittime sono state quasi 500, tutte persone civili che avevano ritenuto di trovare ospitalità e rifugio presso territorio neutrale, che era quello delle Ville Vaticane, e purtroppo invece le forze alleate hanno ritenuto comunque di bombardare anche loro, e quindi è una pagina molto molto dolorosa, ancora viva nelle nostre coscienze, nei nostri pensieri, ma altrettanto controversa rispetto a quello che è la storia della Seconda Guerra Mondiale, in particolare sul territorio dei Castelli Romani. È un po' una vicenda tragica che ricorda quel che accadde a Cassino, tutto sommato poi non meno molto lontano da dove siete voi. No, però Cassino era al fronte, mentre noi eravamo di fatto purtroppo su un territorio che collega il mare, quindi lo sbarco di Anzio Nettuno che era avvenuto appunto nel 1943 con la città di Roma, e quindi ci siamo trovati come città e come intero territorio dei Castelli Romani, soprattutto del versante Appia, ma devo dire che anche la città di Frascati ha avuto le stesse problematiche, anzi forse ancora maggiori, ci siamo ritrovati di fatto sulle vie di collegamento tra il mare e la città di Roma, che hanno comportato un'azione militare da parte degli alleati che a distanza di tempo possiamo ritenere decisamente sbagliata. Molteplici delle iniziative che voi avete messo in campo sono dirette alle scuole, quindi si può leggere, immagino, un'intenzione molto esplicita da parte del comune, da parte degli organizzatori, di contribuire, come dire, a far sì che la memoria di quei tragici eventi non vada perduta, e soprattutto lo si fa con gli studenti. Quindi è questo lo scopo dell'iniziativa, immagino. Assolutamente, tutte le iniziative che abbiamo messo in campo e che avete ricordato, che di fatto sono partite dal 15 gennaio e si chiuderanno il 25 marzo, e sono state fatte, ripeto, congiuntamente, soprattutto in entrambi i comuni, di Albano Laziale e Castel Gandolfo, hanno visto il coinvolgimento delle nostre strutture scolastiche del territorio, ovviamente in particolare di quelle superiori. Ma questo è un progetto che sta all'interno di una complessiva rivalutazione di quella che è la nostra memoria storica e le sofferenze che questi territori hanno vissuto. In aggiunta a questo progetto, noi già da qualche anno portiamo avanti anche un ulteriore ricordo rispetto a quegli eventi luttuosi complessivi che si sono svolti in quegli anni, relativamente al viaggio della memoria. Noi sono 3 anni che accompagniamo le nostre strutture scolastiche ad Auschwitz per poter visitare il campo di sterminio nazista. Siamo proprio appena tornati, giusto sabato scorso, da quest'ulteriore iniziativa. Quest'anno addirittura abbiamo avuto 220 studenti che insieme a noi hanno condiviso questa esperienza fortissima e pesantissima, purtroppo sotto molti aspetti, di 3 istituti superiori del nostro territorio. Ovviamente anche questo, oltre che insieme con le scuole e con gli istituti scolastici, il Foscolo, il Murialdo, il Garrone e anche l'Istituto Formativo Formalba, anche e comunque congiuntamente con l'Associazione Vittime Propaganda Fide, che condivide con noi questo percorso di valorizzazione della memoria, di salvaguardare quelle che è stata la nostra storia e soprattutto di perpetuare il ricordo degli eventi luttuosi e delle tante vittime che purtroppo abbiamo avuto. Sì, la rassegna, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, si chiama La memoria della Seconda Guerra Mondiale sul territorio della Regione Lazio, che avrà termine il 25 marzo. Avete riscontrato interesse sul territorio rispetto abbiamo a questa iniziativa? Abbiamo riscontrato molto interesse per tutte le iniziative che sono state fatte e che anche qui, come avete ricordato, racchiudono diverse forme di espressione, dal cinema alla fotografia, agli spettacoli teatrali, alle conferenze e anche alla presentazione dei libri. Sono sempre molto partecipate, sono sempre di estremo interesse per la città, perché evidentemente questa sensibilizzazione complessiva che portiamo avanti accoglie il frutto appunto di questo interesse, spesso anche filmati e foto inedite, quindi anche da questo punto di vista un ringraziamento all'associazione che da molti anni porta avanti questo percorso di trovare, di costruire un luogo dove si possa ricordare e conservare la memoria dei tanti nostri caduti. Sì, e tra le iniziative, lo ricordiamo, la visita guidata proprio al Collegio Missionario Mater Ecclesiae de Propaganda Fide, che fu il luogo del bombardamento del 10 febbraio del 1944. Cosa è rimasto, Sindaco, dell'edificio di allora? Ma il collegio ovviamente è stato ricostruito ed è ancora oggi funzionante, nel senso del complesso delle ville pontificie, quindi noi, come tutti gli anni, il 10 febbraio del 1944, congiuntamente con il Comune di Castello, facciamo iniziativa sia sul territorio di Albano sia sul territorio di Castello, con una marcia che parte dalla Piazza di Castello e arriva fino al Collegio di Propaganda Fide, oltre che commemorare le vittime di Propaganda Fide su delle targhe che sono a ricordo dei nostri caduti e che sono presenti nella nostra città, e ovviamente anche fare omaggio alla tomba di queste vittime presso il nostro cimitero monumentale. Bene, molte grazie al sindaco di Albano Laziale Nicola Marini per essere stato con noi. Buona serata. Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.